Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi sono sfilato il casco e ho tentato di alzarmi nuovamente, ma il piede destro sprofondava sempre in questa buca, facendomi cadere. Le macchine passavano, il caldo era soffocante, e nella confusione iniziai a sentire una voce che mi gridava di stare fermo e di non togliere il casco. Sono Maraieros, abito a Calmasino, nel comune di Bardolino, sul lago di Garda. Ho 32 anni, sono sposato con una bambina. Era la storia di un uomo che andava a pescare insieme ai propri figli, andava a pescare in un torrente vicino alla casa dove abitavano i suoi e, pescando con le mani, toccava un sasso che gli faceva franare un masso gigantesco e pesantissimo sul braccio. Questa era la storia, una delle prime storie che abbiamo raccontato, se non la prima, forse diciamo quella che quando si parla di storie di emergenza mi rimangono più impresse. Era il 7 di dicembre, mi dice adesso Tiziano, ma se non ricordo male, io lo ricordo particolarmente, correggimi se sbaglio, perché l'abbiamo usato come puntata di prova, quella, giusto? E quindi raccontammo la storia di questo ragazzo, quest'uomo, che insieme ai due figli si trovò in questa situazione d'emergenza. Come tutte le situazioni d'emergenza, succede che c'è un incidente, grave o meno grave che sia, c'è una persona che è nei guai e c'è qualcuno che la salva. Nella fattispecie, la persona che salvò, non ricordo più il suo nome, Massimo, la persona che salvò Massimo fu il suo figlio più grande, che corse a chiedere aiuto alla strada più vicina, si fermò un automobilista, arrivò lì soccorso, insieme ai pompieri gli levarono questo braccio che lo bloccava sotto al torrente, gli salvarono il braccio. Nel caso di oggi c'è sempre appunto una persona che si trova nei guai e una sorta di angelo custode, o anche no, un'altra persona che in questo caso attraversa la strada e va a salvarlo. Oggi si parla delle persone che vi hanno salvato la vita, in qualsiasi modo lo abbiano fatto. 349-238-6666 è per gli sms o altrimenti il profilo Facebook del programma è Matteo Caccia, io sono qui. Se volete invece cominciare a vedere le foto di Eros, che è la persona che è il protagonista della storia di oggi, le trovate sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. Persone come la psicoterapeuta, scrive Gabriele. Stavolta la psicoterapeuta vale di brutto, mi scrive. Non so perché l'altra volta forse no. Non so quale altra volta. Ma forse perché una volta avevamo parlato di una cosa simile, ma leggermente diversa. La psicoterapeuta la incontrai in un momento molto complicato della mia vita e mi ha fatto rinascere. Nonostante 7 anni, la amo ancora. Credo che la traduzione sia: nonostante siano passati 7 anni, la amo ancora. Gabriele, dove immagino che per amore si intenda un amore freudiano, giusto? Si parla di transfert in questo caso, immagino. 349-238-6666. Oggi si parla di quelle persone lì, quelle che in qualche modo la vita ve l'hanno salvata. Questa è la storia di Eros. Era il 28 di luglio del 2002. Avevo 21 anni. Ne avrei compiuti 22 due giorni dopo. Io, con la mia fidanzata, ora mia moglie, eravamo in sella alla mia moto, sull'autostrada del Brennero. Una caldissima giornata d'estate, diretti verso un laghetto del Trentino. D'estate il Trentino è un luogo splendido e la gente lo raggiunge per passarci del tempo. Il Trentino però è anche la porta dell'Italia per chi dalla Germania o dall'Austria viene a trascorrere le sue vacanze qui da noi. Quindi quell'autostrada, la A22, è sempre un lungo biscione di auto. Io mi trovavo sulla corsia di sorpasso, a circa 110-120 km all'ora. La corsia di destra era un'interminabile colonna di auto e di caravan. All'improvviso, dietro di me, sopraggiunge un'auto. Io mantengo la traiettoria e la velocità, visto il traffico era impossibile per me rientrare a destra e far passare quest'auto. Questa però non si dà pace e mi sta a distanza estremamente ravvicinata, facendomi gli abbaglianti per segnalarmi di volere passare. Io, non avendo la possibilità di rientrare, mantengo la mia traiettoria e continuo tranquillo. Questo veicolo però non la smette di starmi vicino, fino al momento in cui sento la moto oscillare nella parte posteriore e vedo il cofano dell'auto vicinissimo al ginocchio della mia gamba sinistra. In un attimo sento un colpo che mi fa balzare via. Vedo la mia ragazza decollare letteralmente sopra di me, come se fossimo stati catapultati. E io, volando via, finisco rotolando molti metri più avanti rispetto al punto d'impatto.

di vedere cosa si è vissuto, ecco. Senti, invece un'altra cosa, l'atmosfera che si respira, scusa, è che sono terribilmente affascinato chiaramente dalla questione Olimpiadi, cosa si respira al Villaggio Olimpico in quei giorni? Quanti giorni ci sei rimasto a Pechino? Erano quasi 20 giorni e dopo si instaura una sorta di grande famiglia con tutti i compagni di nazionale, e dopo, anche essendo comunque correvo un attimo su Paralimpiadi, perché essendo appunto amputato si vedono tante realtà di gente con le disabilità più assurde, e ci si rende anche, mi sono anche reso conto che nella mia amputazione in fondo ero quello che stava meglio di tutti rispetto, sì, a tanti altri che avevano problemi veramente grossi ed erano lì con molta più forza anche di quella che ci ho messo io. Immagino. Senti Eros, invece venendo proprio alla tua vita quotidiana, quali sono le difficoltà ai quali va incontro una persona che ha il tuo problema? Che, scusa, me lo ricordi, è un'amputazione dal ginocchio in giù, giusto? Dal ginocchio in giù, sì. Sì, quando si sta bene, nel senso, poi io sono fortunato che anche avendo un fisico abbastanza atleto, quindi sono 65 kg, la protesi riesco a portarla molto bene, quando si sta bene va bene, poi basta un piccolo brufolino, che è una piccola escoriazione, solo una variazione del tempo, diciamo, della, sì, variazione atmosferica, che cambia il volume dell'arto residuo, e lì comincia a fa anche male, è difficile anche tenerla. Tu di fatto conduci una vita, perdonami il termine, normale, nel senso che hai un lavoro, hai una famiglia. Praticamente sì, tanto che vado a scalare, faccio ferrate, mi piace tanto il trekking di montagna. E scusami, quindi... e questo lo fai con una protesi o lo fai... No, con protesi, sì, con una protesi apposta. Con protesi, sì. Senti, e queste erano cose che tu facevi già prima oppure l'incidente ti ha fatto venire voglia? Come dire, l'incidente ha fatto scattare qualcosa in più? Diciamo che la pratica ho iniziato a farla dopo, ma il fatto proprio di avvicinarmi allo sport è stato proprio, per me era una specie di, non di sfida proprio, per una persona amputata la cosa più paradossale era proprio non tanto camminare ma tornare, cioè correre, cioè proprio l'esagerazione era proprio la corsa. Tanto certo, penso a una cosa che non posso più fare e faccio di tutto per farla. Esatto, c'è proprio il fatto di dover sfidare se stessi, insomma. Eros, senti, ti ringrazio tantissimo per il racconto e per la chiacchiera e a presto. Grazie mille ancora. Ciao, grazie Eros. Grazie, ciao. Voi siete qui. Ci sono due foto di Eros sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui, che raccontano della sua vita dopo l'incidente. La prima è lui su una, è una ferrata questa, Tiziano, nel senso che c'è un ferro, c'è un cavo d'acciaio attaccato ad una roccia tramite dei chiodi, e c'è lui che si arrampica, è visto da sotto, ha un caschetto in testa, ha un abbigliamento estivo da arrampicata, i bermuda, e si vede bene bene la protesi della gamba destra di cui mi parlava nella telefonata. Nella seconda invece lui, beh, insomma, questa foto, questa è una di quelle foto che non ha bisogno di spiegazioni, perché capisci subito dov'è, perché alle sue spalle sulla destra c'è lo stadio olimpico di Pechino, il nido d'uccello si chiama, no? Più o meno l'hanno chiamato, e lui è su una pista che si trova di fronte, evidentemente è una pista di riscaldamento, non so se ci hanno fatto delle gare, è fotografato in piano americano, quindi si vede dalla vita in su, ha addosso una maglietta della nazionale olimpica italiana e un pass che dice Eros, non leggo più il nome, non ci arrivo più al cognome, Eros Marai. È che non ci vedo niente, ragazzi, non ci vedo più ufficialmente niente. La storia di Eros solleva un sacco di domande, in particolar modo un paio, e sono, allora, e la sua ragazza come sta? La sua ragazza, forse avete perso l'inizio della storia, la sua ragazza sta bene, è diventata sua moglie e hanno un figlio. E la seconda domanda è il tizio dell'auto che l'ha urtato. Ne sono arrivati diversi di messaggi che vogliono sapere che fine ha fatto. Non ne sappiamo niente. E io posso anche capire che, diciamo, la parabola si debba concludere con il cattivo che viene, come dire, subisce la sua pena. E invece no, sappiamo solo della persona che ha salvato la vita di Eros e sappiamo di Eros e della sua vita dopo l'incidente. Tant'è, questa è la storia. E poi Fabio mi scrive: ciao Matteo, che cavolo, potevi chiedergli se ha mai più rivisto il militare che l'ha soccorso? Ma allora non l'hai sentito? Tu puoi rimandarmi l'insert, il secondo insert, Pietro? Perché è lì che lui dice, no? Dice che lo risente ogni tanto. La persona che mi ha soccorso, Alpino, appunto, che mi ha soccorso, ogni tanto lo sento ancora, anche perché grazie al suo pronto intervento, appunto, ha fatto sì di aver salva la vita, ma aveva anche salva la parte sotto il ginocchio. Diversamente avrebbero anche potuto amputarmi sopra il ginocchio una volta arrivati in ospedale. È più che altro perché credo che sia davvero complicato non staccare il cordone ombelicale che ti lega a una persona che non te l'ha data, però te l'ha salvata la vita, almeno in maniera così evidente come è successa ad Eros. E poi ancora 349 238 6666, le persone che mi hanno salvato la vita. Alex: avevo 5 anni, salvato dal morso di un mamba verde in Nigeria da Peter il giardiniere. Alex, questa storia in meno di 140 caratteri è straordinaria. Non so se è vera, nel senso che ci sono talmente tanti dettagli assurdi che probabilmente è vera proprio perché è assurda. Il morso di un mamba, cioè, quindi parliamo di un bambino di 5 anni che è nel suo giardino in Nigeria, non si capisce bene dove. C'è un giardiniere che si chiama Peter e viene morso da un serpente che non è un serpente qualunque, è un mamba verde. Non ho idea di come sia, però c'ha come la faccia cattiva. Secondo me il mamba verde è una roba corta, veloce e molto molto cattiva. Salvato dal nero dell'inferno da una flebo gialla, che non so cosa voglia dire, però è molto metaforico. Quando ero piccolo, mio fratello Luigino in un torrente mi ha salvato la vita. Paolo. Chissà se Luigino era più piccolo o più grande e chissà cosa è successo, ma tant'è. 349 238 6666. Me ne aveva, non so se ce l'abbiamo nella telefonata, me ne aveva parlato probabilmente allora fuori onda Eros, aveva paragonato inevitabilmente la storia di un atleta come lui alla storia di Oscar Pistorius. Oscar Pistorius corre non con una ma con due protesi, e in realtà di lui non si sa ben tantissimo, si conoscono solo le polemiche che ci sono state alla fine per lo facciamo correre con i paraolimpionici o con i normodotati. Tiziano però ha trovato e ha tradotto una pagina, perché non è tradotta in Italia, una pagina della sua biografia che comincia esattamente così: il mio nome è Oscar Carl Lennard Pistorius. Sono nato da Sheila ed Hank Pistorius il 22 novembre 1986 a Johannesburg. Secondo i miei genitori ero un bambino bellissimo. Pesavo 3 kg e 300 grammi. Ma in quel momento non sapevano che ero nato con un osso importante in meno in ognuna delle mie gambe. La fibula. Insieme alla tibia quest'osso si estende dall'anca al ginocchio e contribuisce a sostenere tutto il peso del corpo. In più, i miei piedi anche erano malformati. Erano mancanti della parte esterna. Per farla semplice, ogni piede aveva solo due dita, l'alluce e l'indice. Nessuno dello staff medico notò la malformazione all'inizio. Fu mio padre ad accorgersi della differenza. E quella fu la prima di una lunga serie di domande che i miei genitori dovettero farsi. Fu subito chiaro per loro che avrebbero fatto qualsiasi cosa per trovare una soluzione a quei problemi. Ho sentito centinaia di volte ormai la storia dei miei che nei mesi successivi alla mia nascita hanno fatto giro di un sacco di luminari per capire che cosa avessi. I miei genitori non sono mai imbarazzati a parlarne, né di fronte a me, né di fronte ai miei fratelli, né di fronte agli amici. Ogni volta che andavano da un medico che gli consigliava l'amputazione, gli chiedevano se nelle loro condizioni lo avrebbe consigliato anche a suo figlio. Diventarono molto esperti. E alla fine decisero che la soluzione migliore era quella di amputare entrambe le gambe al di sotto del ginocchio. Se lo avessero fatto prima che avessi imparato a camminare, secondo il medico, non avrei subito il trauma della perdita e avrei imparato a camminare per la prima volta con le protesi. Fu una decisione drastica, ma funzionò. Quel dottore, il dottor Jerry, è ancora con me, oggi e ad ogni Olimpiade. Save me, save me, that's all we gotta do now. Save me, baby. pezzi che mandiamo in onda, ve lo ricordo solo quando ci sono dei pezzi che mi piacciono particolarmente, li scriviamo i titoli, autori, cantanti, chi più ne ha più ne metta, sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Questa è Save Me di James Knight and the Butlers. Niente, non li conosco, però mi sembra un pezzo bellissimo. Il Mamba Verde, mi scrivono, è il famigerato serpente dei sette passi, Paola da Bologna, che detto così sembra una roba un po' il serpente dei sette passi. Tu sei immobile, lui è immobile, ti guarda, tu fai sette passi e sei fottuto. Più o meno così, no? Che la racconti, altrimenti è vero, fa un po' destini incrociati. Il serpente dei sette passi incontra il giovane Alex e il giardiniere in Nigeria. Cristiano da Verona: io ho attaccato la presa della corrente in casa e mio fratello maggiore David che mi ha staccato e mi ha salvato la vita. Io 2 anni, lui 7. Caduto in un crepaccio a Bormio a 6 anni, salvato dai maestri di sci di fondo. Tra l'altro sono andato a vedermi, scusatemi, perché adesso questa roba del Mamba Verde mi ha colpito, e a parte il fatto che è verde ovviamente, altrimenti si sarebbe chiamato Mamba Marrone, ed è uno dei serpenti più velenosi al mondo, e dice raramente arriva a contatto con l'uomo, ma in questi casi salta e colpisce alla gola o al volto. Il suo morso, in assenza di antidoti, è sempre rapidamente fatale. Qualcuno mi scrive: è il Black Mamba di Kill Bill? No, perché quello è il Black Mamba, sennò sarebbe il Green Mamba, ragazzi, cioè o siamo daltonici o semplicemente, ecco, infatti quello dei sette passi è il Mamba Nero, mi scrivono. Niente, ho detto tutto a caso e per niente. Io ringrazio anche quelli che hanno reso possibile la puntata di oggi, che sono Eros, che ha scritto la storia dopo averla vissuta, che sono Tiziano Bonini, Pietro Lacorte, e oggi avevamo anche uno stagista. Che fine ha fatto? C'era uno stagista per la prima volta. Come si chiama lo stagista? Niente, non me lo dicono. Nessuno lo sa. Ah, nessuno lo sa davvero. Nicolò. Grazie anche a Nicolò, che ha affiancato per un po' Pietro Lacorte, e a Margherita Ina soprattutto per tutto quello che fa. La storia di oggi era la storia di Eros e parlava di persone che ti salvano la vita. La storia di domani è la storia di Angelo e parla di donne. Sul Faxal, mentre corro, vedo delle donne che a me sembrano dell'est, con i loro mariti accanto, che cercano di imparare ad andare in bicicletta. E le vedo che fanno pochi metri e poi devono mettere giù i piedi, perché stanno per cadere. Oppure vanno avanti, ma la bici sbisola tutta di traverso, e i mariti a correrle dietro, per tenerle su.